in primo piano. Buongiorno, buona Domenica delle Palme da Giulia Crivelli. Siamo come al solito, come ogni domenica, qui per una rassegna dei giornali italiani, come sempre, ma stamattina proprio mentre entravo in studio pensavo quante cose da leggere ci sono con calma che mi porto a casa. Oggi magari abbiamo tutti un pochino più tempo. Comunque vi segnalo i titoli principali, da cominciare dal Sole 24 Ore come sempre, che ha un titolo molto economico perché la notizia di ieri è che dopo l'incontro tra il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e il nostro ministro dell'economia Padoan c'è un primo via libera dell'Unione Europea alla cosiddetta manovrina, perché dopo l'annuncio dei primi numeri, la manovra, il budget del nostro paese per il prossimo anno, sapete, si sono rese necessarie delle correzioni e il governo e il ministro Padoan per primo ha spiegato quali saranno queste correzioni e parrebbe appunto esserci un accordo, quindi non verranno applicate clausole di salvaguardia, non dovremo essere bacchettati, puniti. Molto interessante l'inchiesta del Sole 24 Ore che trovate poi alle pagine 4 e 5 su come cambia l'occupazione, e il titolo è La carica degli over 50. Un posto su tre infatti è senior, per così dire, cioè appunto di persone che hanno più di 50 anni. E poi la consueta lettera al risparmiatore, richiamata in prima pagina, l'articolo che poi trovate a pagina 16 di Vittorio Carlini, che ogni domenica si concentra su un titolo quotato per dare appunto dei consigli a chi l'ha già in portafoglio, a chi ci stesse pensando. Il titolo scelto questa settimana è Technogym, una delle aziende più famose al mondo per i macchinari da palestra, ma soprattutto da palestra anche casalinga, possiamo dire così, oltre che naturalmente professionali. Credo siano tantissime le aziende che hanno i cui dipendenti hanno la fortuna di poter godere di una palestra aziendale, che scelgono Technogym per esempio, e il titolo è La sfida è spingere il business nel Nord America. Un richiamo al pezzo che poi trovate a pagina 13 sul Salone del Mobile. Oggi è l'ultimo giorno di questo 56esimo Salone del Mobile, che tecnicamente è la grande fiera che c'è a Rho, è l'unica fiera nell'anno che riesce a coprire tutto il quartiere fieristico di Rho, ma negli anni il Salone del Mobile viene chiamato anche la settimana del mobile, la settimana del design, perché in città ci sono tantissimi altri eventi, 450 circa quest'anno, forse anche di più, perché poi ci sono quelli non inseriti in alcun calendario. La città vive, la città accoglie, forse alcune stime parlano di 500.000 persone. E Giovanna Mancini oggi, nell'articolo di oggi, si concentra su quello che è successo proprio in fiera, dove si raccolgono gli ordini, e dice: il Salone del Mobile fa il pieno di buyer all'estero. Sarebbero infatti oltre il 75% appunto i visitatori dall'estero, buyer nel senso che vanno, lo dice la parola stessa, comprano, cioè sono persone che sono responsabili degli acquisti per negozi, multimarca, department stores, ma anche che magari si occupano di quei grandi opere che si chiamano poi contract, che sono tutte le forniture di mobili per alberghi, auditorium, università, ma anche grandi ristoranti. Il Corriere della Sera invece apre facendo riferimento a un'intervista di Fiorenza Sarzanini al nostro ministro degli interni Marco Minniti, che dice: l'accoglienza ha un limite, questo è il virgolettato, prevenire i rischi, sarà espulso chi si radicalizza. Come molti giornali, in prima pagina ci sono anche le due foto segnaletiche, scattata di fronte e poi di lato, del presunto, ma ormai quasi certamente assassino, del barista di Budrio una settimana fa. Viene chiamato Igor il Russo perché di lui non si sa molto altro. Ieri ha ucciso una guardia volontaria, come avete sentito anche nei GR. Vi leggo poi il Padiglione Italia di Aldo Grasso, perché l'ho trovato ironico come sempre, ma che tocca questo tema, visto che abbiamo visto le statistiche sul lavoro del lavoro, e soprattutto torna all'approccio che ha Domenico De Masi, che è un sociologo che teorizza che lavoreremo tutti di meno nei prossimi anni, decenni. De Masi parla di lavoro e teorizza l'ozio. L'ozio è il padre degli sfizi, un intervallo di lucidità. Il sociologo Domenico De Masi, classe 1938, ma da Lilli Gruber ha tenuto a ribadire di percepirsi diciottenne, si dà un grande da fare. Lo vediamo spesso in TV, partecipa a convegni, tiene conferenze, scrive libri. Ieri, per esempio, era ospite d'onore a Ivrea per spiegare il futuro del lavoro alla Casaleggio Associati e a Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle gli aveva commissionato una ricerca Lavoro 2025. Lavoro, sempre lavoro. Strano destino per uno studioso che da anni teorizza l'ozio. Ozio creativo, si intende, qualcosa di molto diverso dalla pigrizia o dalla nulla facenza, ma pur sempre ozio, meno ore di fatica, libero e piacevole uso delle proprie forze, soprattutto spirituali, all'infuori di ogni bisogno o scopo paratico, l'ozium dei latini. L'inazione nasce dagli dèi. Nel romanzo La lentezza, Milan Kundera scrive una cosa importante. Nel nostro mondo l'ozio è diventato inattività, che è tutt'altra cosa. Chi è inattivo è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca. L'intuizione di Casaleggio, padre, è stata proprio quella di mettere in connessione sulla rete persone inattive e frustrate, dando loro il movimento che gli mancava, il Movimento 5 Stelle. Non invidio Aldo Grasso per la quantità di mail e di insulti che riceverà oggi, perché appunto dire che Casaleggio ha messo insieme, ha dato una possibilità alle persone inattive e frustrate, e poi leggo le ultime righe: adesso però finiscono per essere troppo attivi. Lavorando sodo, De Masi potrebbe spiegare loro e a noi che l'attività del cretino è molto più dannosa dell'ozio dell'intelligente, che è un aforisma di Mino Maccari. Questo era il Padiglione Italia di Aldo Grassi sulla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica ha una fotonotizia che è riferita alla vicenda di Igor, il fuggiasco che è braccato, perché chissà se oggi magari ci saranno notizie, comunque pare sia proprio in fuga a piedi in un grande parco vicino a Ferrara. E la foto però non è quella dell'uomo, ma di un blocco di un posto di blocco, di uno dei tanti posti di blocco istituiti nella zona ieri, e probabilmente che proseguiranno anche oggi. Poi c'è un altro titolo importante sulla prima pagina che riguarda le mosse, lo scacchiere veramente mondiale su cui si sta giocando questa partita. La prima mossa l'ha fatta Putin, sapete, con la decisione di bombardare la Russia tra giovedì e venerdì notte in Italia, la Siria, scusatemi, tra giovedì e venerdì notte in Italia. Il titolo: Trump avverte la Corea del Nord, difenderò Seoul, cioè la capitale della Corea del Sud. E Pyongyang, capitale della Corea del Nord, risponde: avanti con l'atomica, pronti a anticipare il vostro blitz. Vi leggo però, così insomma, alleggeriamo un po', perché giustamente insomma per un po' di tempo Alessandro Milan a 24 Mattino ha tenuto la sua, chiedeva a tutti gli ospiti un po' ma qual è il problema di D'Alema o di altri personaggi del PD, esponenti del PD, che insomma che sembrano veramente concentrare tutte le loro energie nei litigi interni, nelle faide interne. E oggi Michele Serra invece si concentra su Michele Emiliano, uno dei due sfidanti a Renzi per la segreteria del PD insieme al ministro della giustizia Orlando. Scrive Serra: scriverò insieme a tutti voi il discorso politico da presentare al confronto con Renzi e Orlando. Questo è l'annuncio sulla sua pagina Facebook di Michele Emiliano. Si capisce il fascino della democrazia partecipata, ma concretamente come si scrive un comizio collettivo? Ognuno consegna un bigliettino con una frase e poi si confeziona il tutto con la tecnica del collage? Gli si telefona, lui prende nota, fa una sintesi ragionata? E se poi uno gli dice adoro i gasdotti e tagliuzzo gli ulivi col temperino, fa finta di non aver sentito o prevede un breve inciso che renda onore alle minoranze interne? Ma poi, con tutto quello che c'è da fare nella vita, le giornate pienissime, lo stress, le agende che incrudeliscono, gli appuntamenti che incombono, bisogna anche trovare il tempo per aiutare Emiliano a scrivere il suo discorso. E a parte la prevedibile renitenza, quelli che lo incontrano, anche vecchi amici, e si voltano dall'altra parte fischiettando per il terrore che lui gli chieda una frase, un rigo appena, ha messo nel conto Emiliano la cattiveria della gente, che quando lui pronuncerà la frase più ficcante, il pensiero più seducente, la gente dirà, dandosi di gomito: questa mi sa tanto che gliel'ha suggerita qualcuno. E questo era Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica. La maca, sapete, da qualche tempo è stata spostata appunto dalle pagine interne dedicate ai commenti alla prima pagina di Repubblica. Come ogni domenica in edicola con Repubblica, L'Espresso, diretto da Tommaso Cerno, è lui che ha preso questa decisione di spostare appunto dalla tradizionale uscita del venerdì alla domenica. La copertina questa settimana è dedicata a Berlusconi. Rieccolo, perché Berlusconi può vincere ancora. È un disegno, in realtà Berlusconi viene portato in una sorta di portantina, e chi la porta sono Giorgia Meloni, mi sembra di riconoscere Antonio Tajani, da poco eletto presidente del Parlamento europeo di Forza Italia da molti anni, anche da molti anni in Europa. Poi c'è Matteo Salvini e dall'altra parte credo sia Toti, anche sembra un po' magro per essere Toti, ma insomma è Toti. E all'interno appunto vedete, tra l'altro poi vedremo anche la notizia, le ultime dichiarazioni di ieri di Berlusconi, che sta conducendo questa battaglia a fianco di Michela Brambilla per scongiurare la consueta strage di agnelli per i pranzi di Pasqua che ci apprestiamo a fare tra settimana prossima. Ultimo titolo prima di lasciarci un attimo per una pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti meteo. Il Messaggero si concentra sulla manovra, ma quella che abbiamo detto probabilmente sarà approvata dall'Unione Europea. Manovra, tagli e tasse sui giochi. Bruxelles dal via libera alla correzione del deficit, ma per ora nessuno sconto sul 2018. Sale il prelievo sulle vinci dalle lotterie, tabacchi più cari, stretta sulle spese dei ministeri. Come ogni domenica il consueto intervento di Romano Prodi, che si occupa della crisi, abbiamo detto, innescata dal bombardamento in Siria e del ruolo dell'Europa. L'Europa marginale, gli USA escono dall'angolo ma sconteranno il gelo cinese. Ci risentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine e adesso ve ne segnalo due che hanno un titolo simile, che è una notizia, l'abbiamo data anche ieri nella rassegna internazionale, che veramente in un tempo appunto in cui purtroppo soffiano venti di guerra ovunque, secondo me è un segnale di speranza. La notizia è questa, la leggo prima dall'Avvenire, che dedica il titolo principale: ETA, virgola, addio alle armi. L'ETA, sapete, è l'organizzazione terroristica armata basca, è un acronimo ETA che sta per Euskadi ta Askatasuna, che vuol dire Paese Basco e Libertà. Ha lottato per 40 anni per appunto l'indipendenza della regione basca, è stata di fatto sconfitta, una lunga sorta di guerra all'interno della Spagna che ha fatto oltre 1000 morti di bombe, di altri attentati terroristici. Ora l'ETA, che già nel 2011 aveva annunciato l'addio alla lotta armata, ha consegnato gli arsenali. La maggior parte di questi arsenali di armi erano in realtà in Francia, e appunto i separatisti baschi hanno detto esattamente dove si trovano queste armi, che verranno distrutte. E lo stesso titolo più o meno è quello del manifesto, addio alle armi. E appunto scrive il manifesto in prima pagina con una grande fotonotizia di persone che manifestano per mostrare, di spagnoli che manifestano per dire, per far capire quanto è positiva questa notizia per tutta la Spagna. In un mondo pieno di guerre, l'ETA celebra il giorno del disarmo in una manifestazione a Bayonne e rilancia la richiesta di negoziato con Madrid e Parigi sui prigionieri politici e il futuro dei Paesi Baschi, quindi negoziato al posto di bombe. La Stampa ha un titolo ancora diverso, perché c'è una interessantissima inchiesta alle pagine 2 e 3 sul fatto che, come abbiamo sentito anche spesso nei telegiornali, negli approfondimenti anche qui a Radio 24, questo è stato un anno di scarsissime piogge, e quindi il titolo: La grande sete assedia il nord, è emergenza. La Coldiretti, che riunisce moltissimi agricoltori italiani, è la principale organizzazione appunto degli agricoltori italiani, lancia l'allarme: il Po è sotto i livelli di guardia, piogge dimezzate, invasi mezzi vuoti. E il commento è di uno, forse il meteorologo più famoso d'Italia, Luca Mercalli: il cielo senza le nuvole. La fotonotizia però è dedicata a Milano, è una foto della torre dell'Unicredit, che è uno degli edifici della zona Porta Nuova, che hanno un po' cambiato la skyline di Milano negli ultimi anni. È stato disegnato da Cesar Pelli, che è uno degli architetti più famosi al mondo. La foto serve a a spiegare l'articolo di Mattia Feltri che si intitola PIL record e innovazione, il rinascimento di Milano. Lo spunto naturalmente è quello che dicevamo anche prima, il Salone del Mobile, che è veramente la manifestazione di punta dell'anno e che dà a Milano anche la possibilità di mettersi in vetrina. E siccome anche grazie all'effetto Expo Milano sta veramente vivendo un momento magico, ci sono anche i numeri a confermarlo. Appunto, il PIL di Milano è il medio pro capite circa il doppio rispetto a quello medio italiano. L'Unità, un titolo diverso che riguarda sempre la guerra, un titolo un po' ambiguo in realtà, perché non si capisce se ha una accezione positiva o negativa, almeno io non l'ho capito così di primo acchito. Le armi per battere la guerra. I governi aumentano le spese militari mentre il piano per i rifugiati non riceve i soldi promessi, quindi in realtà appunto è una critica al fatto che ci sia questa contraddizione. Incassa 400 milioni anziché i 4 miliardi necessari, profughi perseguitati e senza assistenza. E poi ulteriori informazioni trovate a pagine 2-3. Il che peraltro stride un po' con con l'editoriale consueto della Domenica di Walter Veltroni, che dell'Unità è stato direttore ed è stato anche segretario del PD, che si intitola La guerra e la politica, perché inizia con una poesia di Sergio Zavoli che è assolutamente contro la guerra, e poi però scrive questo: il bombardamento che Trump ha deciso è, per usare la formula di Paolo Gentiloni, una risposta motivata. E non lo so, questa è secondo me una frase abbastanza, cioè abbracciare questa teoria della risposta motivata. Non so, mi sembra un po' a parte per Veltroni, che forse avrebbe potuto trovare lui delle sue parole, non usare quelle di Gentiloni, ma comunque insomma ci sarebbe molto da discutere sulla risposta motivata che sarebbe questo bombardamento deciso da Trump in totale autonomia senza consultare l'ONU su una base siriana. Libero, La Verità e Il Giornale invece si concentrano sull'escalation di violenza che emettono insieme sia il killer russo in fuga, ma anche il nordafricano che ieri ha aggredito un poliziotto a Milano e molte altre vicende di ieri di cronaca, tra le quali per esempio anche la vicenda della bambina, della sposa bambina che è stata tolta alla sua famiglia. Il titolo è Reagire con violenza. È di Vittorio Feltri questo articolo, poi continua a pagina 5. Noi li accogliamo, i fanatici musulmani ci ripagano ammazzandoci in massa, vogliono assoggettarci ai loro usi, l'unica via è imporre i nostri costumi, chiudere le frontiere, rispedire gli immigrati che sgarrano da dove sono venuti. La fotonotizia è dedicata alla convention del Movimento 5 Stelle che c'è stata ieri a Ivrea, e poi vi segnalo, inizia in prima pagina, poi lo trovate a pagina 24, una cosa che non sorprende più di tanto, anzi direi che è una mossa coerente, perché Antonio Socci, dopo aver passato praticamente 4 anni da quando è stato eletto a criticare Papa Bergoglio e la Chiesa che Papa Bergoglio ha in mente, dice: questa Chiesa non merita più il mio 8 per 1000, protesta da cattolico. Tutto prende spunto da un articolo apparso ieri su Avvenire, che a sua volta criticava l'ennesimo attacco di Socci su Libero. E quindi dice Socci: a nessuno si può chiedere di finanziare chi lo bersaglia da anni. Avvenire bersaglierebbe Socci, non il contrario, vabbè. Oltretutto in un modo sleale. Infatti Avvenire mi accusa di aver definito certe espressioni di Papa Bergoglio assai simili alla bestemmia, e poi afferma che io per grave critica non porterei nessun argomento valido a sostegno. Come se io lanciassi al Papa irresponsabili accuse senza motivo. Il fatto è che Avvenire si è ben guardato dal riferire le frasi testuali di Bergoglio da cui partivo. E va bene, allora l'8 per 1000 di Papa Bergoglio è avvertito, l'8 per 1000 di Antonio Socci quest'anno no, la Chiesa non lo avrà. La Verità, morti, coltelli, spose, bambine, gli immigrati fuori controllo. Questo è il titolo principale della Verità, una ordinaria giornata di paura. Continua l'approfondimento della Verità sulla vicenda che ha coinvolto l'ex l'ex leader di AN Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, ex vice premier, ricorderete, per la casa di Monte Carlo, in cui si sospetta sia stata pagata sotto costo, ma per avere un vantaggio che poi è andato direttamente o ai Tugliani o a Fini stesso, o, e che quindi è una vicenda ancora poco chiara. L'ombra della mafia sui soldi dati a Fini ai Tugliani. Nelle carte, queste carte che dell'inchiesta che è ancora in corso, i legami tra il boss stragista Santa Paola e Gaetano Corallo, che era, veniva definito il re delle slot machine a Roma. E il padre, ora il padre di Corallo denuncia per furto del patrimonio il figlio, arrestato per aver dato milioni ai familiari del politico. Quindi una saga familiar criminale, potremmo dire. Preciso, ma l'ho detto, è un'inchiesta ancora in corso, la verità la sta seguendo in tutti i suoi sviluppi, poi vedremo quando e se arriverà la parola fine. Il giornale uccide e fugge ancora, quindi il titolo sostanzialmente è dedicato al killer russo, però c'è anche un riferimento all'immigrato che ieri, armato di coltelli, ha aggredito un poliziotto. La fotonotizia è dedicata a Berlusconi, che, come vi dicevo, ieri ha spiegato che, per esempio, ha adottato 5 agnelli, un po' il simbolo di questa battaglia per opporsi alla strage di agnelli che c'è sempre per Pasqua, perché l'agnello è una pietanza tradizionalmente pasquale. Il Fatto Quotidiano invece ha un titolo diverso che riguarda lo scenario geopolitico: Kim, Assad, Trump e Putin in guerra, un pazzo tira l'altro. E le foto sono appunto quelle di, viene chiamato il triangolo del caos: Bashar Assad, Donald Trump e Kim Jong-un della Corea del Nord. E il commento che poi trovate a pagina 13 di Furio Colombo: la sicurezza purtroppo è un'illusione. Vi segnalo due articoli dalle pagine interne del Sole 24 Ore prima di lasciarci un attimo per il traffico. Molto interessante la copertina di Nova, che è in edicola è inserito nel Sole 24 Ore ogni domenica, che è dedicato a questo fenomeno di cui ormai sentiamo così tanto parlare, le fake news, cioè le notizie false. Vi segnalo l'ultimissimo caso, l'annuncio che era stata trovata una bambina allevata dagli scimpanzé. Non è probabilmente così, era una bambina abbandonata nella giungla dai genitori perché era una bambina con qualche problema, e quindi hanno avuto questa bella idea di abbandonarla nella giungla, e quindi tutto finto, il nuovo Tarzan, eccetera. Ma quindi il titolo di Nova: il fact checking nasce a scuola, Google e Facebook e non solo si muovono, ma la capacità critica rientra negli obiettivi didattici. Non l'hanno scoperta Google e Facebook, lo dice pure l'OCSE. Ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi così presto al 349-238-6666, sms o whatsapp, ce ne sono molti, insomma, davvero che ringrazio. Poi c'è un signore che dice: ma siamo così a corto di radio intrattenitori, perché ci sono io, a parte che spero di non essere un'intrattenitrice, insomma, ma o forse sì, siamo nell'era dell'infotainment dopo tutto. Ma torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore. Come sempre la domenica, quella dedicata a sport e business, questa settimana ci si concentra sull'hockey su ghiaccio, sicuramente uno sport minore in Italia ma non in altri paesi, ad esempio naturalmente il Canada, che è il paese dove è lo sport nazionale. Per i team italiani budget da 1 milione nella Sky Alps di hockey su ghiaccio, perché appunto si stanno muovendo anche le TV, perché comunque ci sono anche in Italia molti appassionati di questo sport. Vi dicevo la scelta animalista di Berlusconi, se volete tutti i dettagli a pagina 13, Paola Di Caro, ci sono anche due foto di Berlusconi con un agnello in braccio accanto a Michela Brambilla, e di Berlusconi che dà il latte a questi agnelli salvati. Parte la campagna per Pasqua, tra l'altro Berlusconi ha anche avviato una campagna per raccogliere fondi per i terremotati, un tema che appunto non dobbiamo mai dimenticare, quello della ricostruzione, del resto questo il governo proprio ieri ha annunciato che ci saranno stanziamenti per i prossimi 3 anni di 1 miliardo all'anno per la ricostruzione. Vi segnalo l'ultima segnalazione dalle pagine interne, il Corriere, sapete, la domenica ha il supplemento Corriere Salute, molto bella la storia di copertina che poi viene approfondita anche all'interno, è l'empatia il nostro superpotere. C'è chi pensa di connetterci a un computer per garantirci maggiore memoria e potenza di calcolo. Forse accadrà davvero, invece è difficile pensare che soluzioni tecnologiche possano influenzare la nostra abilità a interpretare i sentimenti degli altri, una dote straordinaria che ci ha resi capaci di costruire la società. E credo che nessuna intelligenza artificiale riuscirà mai appunto a fare questo, a raggiungere l'empatia. Oddio, a volte non ci riusciamo comunque, però potenzialmente ci riusciamo noi esseri umani. Passiamo alla domenica del Sole 24 Ore e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola La Croce e parte da versi di Alda Merini. La croce non è un palo dei romani, ma è il legno su cui Dio ha scritto il suo Vangelo. Indimenticabile per me fu l'incontro nel museo di Colmar in Alsazia col Cristo crocifisso dell'altare di Isenheim, dipinto da Matthias Grünewald tra il 1512 e il 1516. Sotto un cielo livido e cupo, in un paesaggio squallido e disabitato, si staglia la gigantesca e sproporzionata figura di Cristo, infisso su una croce di tronchi, straziato da chiodi enormi. Penso a quell'immagine cruda in questa domenica dedicata alla passione di Gesù, riprendendo le parole di una poetessa che mi è stata vicina con la sua poesia, il suo affetto, la sua ricerca spirituale, Alda Merini. La croce di Cristo non è il palo di un supplizio escogitato dai romani per gli schiavi e i rivoluzionari, è un Vangelo aperto, un annuncio non di morte ma di liberazione dal dolore e dalla caducità, ed è proprio davanti al Cristo di Grünewald che si comprende questo paradosso. La copertina però vera e propria è il primo di una serie di articoli di Lucio Russo, che ha iniziato la collaborazione con il Domenicale il 13 ottobre del 2013 con un articolo che prefigurava la possibilità di ridare vita alla più gloriosa, scrive Armando Massarenti nel presentarlo, delle nostre istituzioni educative, cioè il liceo classico. E questo articolo, un colosso greco a Manhattan, che spiega come la cultura classica vada ripensata e riscoperta nei posti più impensati. Ad esempio, pochi sanno che la Statua della Libertà si ispira al dio Sole di Rodi. Come sempre, all'interno le 4 pagine dedicate ai lettori più piccoli, c'è qualcuno che sa leggere, e il pezzo principale di Fulvio Irace, il grande critico d'arte, è una recensione di una mostra bellissima che c'è alla Triennale fino al 18 febbraio 2018, quindi tanto tempo per andare a vederla, ma non rimandate troppo, perché con le mostre che durano troppo uno dice magari rimanda e poi alla fine la perde. Si chiama Giro Giro Tondo Design for Children, una mostra che è tra l'altro piena di oggetti divertenti, che racconta come è cambiata la scuola negli ultimi 100 anni, ed è appunto una mostra che secondo me va benissimo sia per i bambini che si divertono, sia per i genitori. Hai visto che abbiamo parlato di Gianfranco Ravasi, c'è anche una recensione, in realtà un'anticipazione del suo prossimo libro, che sarà in edicola il 13 aprile, si intitola Sion, guida essenziale alla Terra Santa, e appunto è una serie di consigli molto ragionati e molto affidabili per chi vuole appunto intraprendere un viaggio in Terra Santa, un viaggio nei luoghi della Bibbia di Gesù alla luce dell'intreccio tra fede e storia, salvezza e geografia, cultura e società. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Damien Hirst, di cui avete sentito parlare anche prima nel GR, perché proprio oggi si inaugura, apre al pubblico la grande mostra che c'è a Venezia, in realtà in 2 location diverse, la Punta della Dogana e Palazzo Grassi, che sono entrambe tra l'altro la Fondazione Pinot. Pinot è il padrone del secondo gruppo del lusso mondiale, che è Kering, ed è anche un mecenate, appunto si è concentrato in particolare su Venezia, aprendo questi 2 spazi espositivi, e la mostra è, come avete sentito, dedicata, è una mostra molto complessa, con quel titolo è Treasures from the Wreck of the Unbelievable, che vuol dire tesori dal naufragio dell'incredibile, in qualche modo è ispirata al tema del naufragio del mare, ma poi in realtà rielaborata dall'artista inglese. prosegue la serie di articoli su ciò che non c'è più, su ciò che è in estinzione, iniziato il 26 marzo con gli animali in via d'estinzione. Questa settimana la lettura invece si concentra sui valori in via di estinzione, per esempio la fedeltà in politica, racconta Maurizio Ferrera, o l'ospitalità, secondo Umberto Curi, o la speranza, che un po' logorata, dice Carlo Bordoni, dalla fretta di vivere, o ancora la sincerità, nel senso che ormai tutti mettiamo molte maschere, secondo Giancarlo Di Maggio. Poi naturalmente ognuno può essere d'accordo o no. Robinson, il supplemento domenicale della Repubblica. Il titolo è La classica gioventù, con un approfondimento. Anche Robinson è arrivato a questa. Nelle settimane scorse ne hanno scritto anche altri giornali, sul fatto che ci siano sempre più iniziative di musica classica indirizzata ai bambini. Bambini conquistati da Rossini, ragazzi in fila alla Scala, contaminazioni con il pop. Intanto nuove generazioni di interpreti salgono sul palco. Quindi la musica classica, un po' come i libri, mi viene da dire, insomma, sembra avere un brillante futuro, e soprattutto esercitare ancora tanto del suo innegabile fascino sulle nuove generazioni. Bellissima l'intervista di Antonio Gnoli a Zero Calcare, che è il nome d'arte, possiamo dire, di Michele Re, che è un ragazzo, un millennial, nato nel 1983 ad Arezzo, e ha scritto delle graphic novel molto belle. E il titolo dell'intervista: l'armadillo rappresenta la mia coscienza che tende a chiudersi su di sé. Sapete che l'armadillo è quell'animale bizzarrissimo che appunto ha questa corazza. Coltivo una parte inaccessibile, quanto è faticoso stare troppo tempo con le persone. Tempo di qualità, naturalmente, perché appunto invece in modo superficiale forse è più facile, ma se davvero, come diceva il Corriere, vogliamo essere empatici o capire o essere accoglienti, allora sì, può essere molto più che faticoso, impegnativo. Ma spero, insomma, di non essere stata io troppo impegnativa, ma di avervi dato degli spunti interessanti. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.